24 di Giovanni Minoli. Giuseppe Sala, buongiorno, candidato sindaco a Milano per il centro-sinistra. Ecco, buongiorno a lei, Minoli, e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Senta, due city manager come lei e Parisi, city manager di due ex sindaci di centrodestra, Moratti e Albertini, che oggi si scontrano a Milano per fare il sindaco. Vuol dire che a Milano destra e sinistra sono la stessa cosa? Eh? Beh, mi pare che in questi giorni sta venendo fuori in tutta la sua differenza. Che cosa vi divide di più? Che cosa vi divide di più allora? Innanzitutto mi permetta una battuta, ma che ha un grandissimo fondo di verità, e cioè Salvini definisce Parisi uomo di Confindustria. Ecco, io sono uomo di industria. C'è chi è stato negli apparati, negli uffici, negli uffici studi, e c'è chi come me ha vissuto veramente le problematiche dell'organizzazione del lavoro. Questa vabbè, prima, anche l'apparato, anche nell'apparato, perché sindaco così city manager della Moratti, insomma. Ma sì, l'ho fatto un anno e mezzo, dai Minoli, l'ho fatto un anno e mezzo, vabbè, su 30 anni di carriera, va bene, se vogliamo un anno e mezzo su 30 anni di carriera, ma io ho fatto l'industria, io ho girato per le fabbriche di tutto il mondo. D'accordo, queste cose le conosco. E in termini di organizzazione qualche capacità ce l'ho. Che cos'è che vi divide di più oggi? Una visione profonda innanzitutto di quello che è Milano. Parisi evoca una Milano buia, triste, ma ieri pensi che questo signore è persino arrivato a dire che in 5 anni la legalità è stata dimenticata. A Milano, ma dove ha vissuto? Senta, ma qual è il punto? No, ma mi dica una cosa precisa però. Qual è il punto del suo programma che fa la differenza secondo lei per non il essere... Il punto del mio programma... Se no fate come i politici soliti. No. Guarda, il punto del mio programma fa la differenza è che io riconosco che c'è la Milano che va molto bene e va sostenuta. Poi sulle periferie, che è un tema a Milano, sì, Parisi certo. propone sicurezza e telecamere. Io propongo, certo, sicurezza e telecamere, ma una socialità, una via di recupero delle periferie senza le quali noi saremmo lì a sempre cercare di controllare questa situazione, ma controllarla non vuol dire invece gestirla e far sì che la situazione e quindi in concreto che cosa fa lei nelle periferie? Cosa propone? Lavoreremo sulle case, ma lavoreremo per dare vita alle periferie, centri di aggregazione, sport, cultura, non c'è nulla. Questo è il dramma delle periferie. Ma non c'è nulla, ma negli ultimi 5 anni è amministrato il centro-sinistra. Ho capito, io secondo lei perché mi candido? Mi candido perché ritengo di avere la capacità di fare le cose e quindi... E quindi Pisapia ha sbagliato lì fino adesso. Ma non è che è sbagliato, Pisapia ha fatto delle grandi cose, poi quando le fa e Parisi arriva bello fresco, le contesta... Vabbè. Non ha gestito bene la legalità. No, ma lei dice che le periferie sono state abbandonate negli ultimi 5 anni. No, beh, guardi, la storia di Milano è una storia di 2000 anni. Adesso se vogliamo anche... Guardi, io uso solo le sue parole. C'è un'altra differenza. Non c'è una cosa che succede a Milano che Parisi non cerca di riportare solo Albertini e la Moratti. Io dico, ma certamente la Moratti ha avuto i suoi meriti. Ma certamente. Lei lavorava lì, sarà forse ma solo appunto, un anno e mezzo, ma appunto, insomma. Ma appunto, ma che facciamo? Le classifiche? No, senta, allora non facciamo classifiche. Lei è stato molto criticato per le sue dichiarazioni lacunose e tardive sul suo patrimonio. Pensa di aver chiarito tutto adesso? Anche perché, guardi, il tema è, io ho pagato le tasse su questa benedetta casa in Svizzera. Era nella dichiarazione dei redditi, poi i miei uffici mi hanno preparato una di quelle dichiarazioni che si fanno e io in velocità l'ho firmato. Vabbè, a sua insaputa anche lei. No, ma sarei stato veramente un pirla, prima pago le tasse e poi dopo faccio finta di non mettere qualcosa in una dichiarazione. Vabbè, comunque è soddisfatto, così ha chiarito. Senta, sì, assolutamente sì. Quello che però non è chiarissimo è il bilancio finale dell'Expo. Si voterà avendo dati certi o senza avere dati certi? Ma come non è chiarissimo? L'ha pubblicato la società. No, la società l'ha pubblicato, c'è un patrimonio netto positivo. Basta andare sul sito di Expo 2015 SPA e si vedono i conti. E quindi il buco di cui si parla è demagogia? È un buco della destra, un buco nella testa della destra. Finché non sono entrato in campagna elettorale ero un eroe. Adesso ma questo è il dramma, della politica. Però. Senta, dottor Sala, l'Expo però è stato il suo fiore all'occhiello, malgrado i buchi della destra. Però può diventare anche un boomerang, perché adesso c'è il problema del dopo Expo. E sembra che quando c'era l'Expo non avete pensato tanto al dopo Expo. Beh, è così? chi è chi, perché guardi, nel mio ruolo non c'era di pensare altro. Vabbè, però adesso che fa il sindaco tocca a lei anche. Certo, anche. Con Maroni, perché è un problema di con Maroni, con tutti e due. Ci metteremo lì e senz'altro penseremo dopo Expo, che è qualcosa di assolutamente importante. È meglio pensarlo in fretta. Con Maroni ci dialogo, ci parlo da tanto tempo. Bene. Ogni tanto bisticciamo, il più delle volte lavoriamo per costruire assieme. Senta, ma che senso ha la soluzione trovata da Tecnopolis della Scienza? Secondo lei è una buona soluzione, secondo lei? Io sfido chiunque a capire. No, le chiedo se secondo lei è una buona soluzione. Sfido chiunque a capire da non scienziato se è una buona soluzione, perché è difficile da valutare. Io dico, il governo ci mette dei soldi, è un modo per fare ripartire lì. Prendiamo questi soldi, facciamo questa cosa e poi lì si aggregheranno tanti. Tanto guardi, sono in un progetto che comunque è affidato a gente di valore. Certo. Sono il 15% delle aree sono coperte, c'è tanto ancora da fare poi. Senta, però la senatrice, come lei sa, la senatrice Cattaneo. La senatrice a vita Cattaneo, considera una follia questa scelta. L'ha sentita? No, ho parlato ieri che ho incontrato con Grimio Grande Presidente, il presidente Napolitano a Milano, che mi raccontava di questa cosa, mi raccontava anche lui che aveva discusso con la senatrice Cattaneo. E mi stava dicendo che bisogna ascoltare più voci, cosa che adesso si fa. Penso che sia perché anche l'ex presidente Napolitano ha fortissimi dubbi su questa scelta. Con lui almeno ne ha parlato o no? Mai. Sì, appunto, mi ha raccontato del dialogo con la senatrice Cattaneo. Adesso quello che ho capito è che chiederanno a degli esperti internazionali di valutare, cosa non sbagliata, di valutare oggettivamente la bontà del progetto. Quindi Napolitano non si sbaglia, fa una critica che accoglie lei. No, Napolitano ha ascoltato la Cattaneo, e sta chiedendo di ascoltare più esperti. Va bene, quindi lo farete, se ho capito bene, no? Sì, sì. Ecco, senta, quando darà i nomi della sua squadra? Ma qualcuno prima delle elezioni, prima del ballottaggio. Tanto ballottaggio io spero di no, ma mi sa che ci andremo. Ovviamente non tutti, perché poi fa parte del gioco democratico, in funzione anche di quanto successo avranno le varie liste. È giusto che spetterà insomma loro. Dobbiamo lottizzare un po' anche se siamo ma è la democrazia, dai. La democrazia, vabbè. Sono belli tecnici che entrano in politica, scoprono delle altre regole. Senta, sarà una giunta in continuità guardi, io qualcuno di tecnico mi porterò dietro nome o no? No, troppo presto, vabbè. Sarà in continuità con la giunta Pisapia, visto che insomma è l'erede sponsorizzato? Ma come? C'è stato tante di quelle polemiche all'inizio su questo gioco della continuità o del cambiamento. Io mi sono permesso di dire all'inizio che capivo il valore e apprezzo moltissimo quello che ha fatto Pisapia, ma mi candido per cambiare. Quindi lei non vuole essere l'erede di Pisapia, lei è Sala. No, io voglio prendere da Pisapia tante cose, in primis il tema della legalità. Va bene. E che cosa non vorrebbe prendere a Pisapia? Vabbè, un po' sulle periferie l'abbiamo detto. Senta, ma c'è una cosa che invidia invece a Parisi, oltre a tutte le critiche? No, non invidio nulla a Parisi. Nulla. Senta, un'ultimissima domanda. Ma lei una via Almirante a Milano la farebbe? No, non la farei. Perché? Perché non mi pare il caso, cioè facciamo le cose concrete, non viviamo è un fatto concreto. No, la considero una provocazione, guardi, pensare adesso si faccia la via Almirante, poi figuri a Milano. Va bene, grazie, auguri. Buona giornata. 800 24 00 24 per i vostri interventi in diretta, 349 238 6666 per commentare via SMS. Quando Falcone, solo per continuare il suo lavoro, propose la sua aspirazione a succedere ad Antonino Caponnetto. Sonoro? Non c'è. Finito. Si è bloccato il sonoro. Comunque era l'ultimo discorso di Paolo Borsellino, pochi giorni prima di che fosse ucciso lui, ed era in memoria di Giovanni Falcone. Morte di cui lui aveva una consapevolezza assoluta e le sue parole lo rivelavano con chiarezza. Ecco, a mantenere viva la battaglia oggi ci sono molte iniziative. Rita Borsellino, che è la sorella di Paolo, che è stata europarlamentare del PD fino al 2014 ed è presidente del Centro Studi Paolo Borsellino, è promotrice insieme alla Direzione Generale per lo Studente del MIUR del progetto Bibliolapa. Ecco, dottoressa Borsellino, che cos'è la Bibliolapa? I palermitani lo capiranno perfettamente, perché da noi il motofurgone, la Pepiaccio, quello a tre ruote per intenderci, il l'ape è, viene chiamata la lapa, come l'altro, quello più piccolino viene chiamato il lapino. Quindi la lapa è una, un motocarro della Piaggio che noi abbiamo trasformato in biblioteca, abbiamo inserito degli scaffali, abbiamo messo dentro dei libri e abbiamo fatto questo progetto che vuole essere street book, per intenderci, libro di strada. Dunque, quindi l'obiettivo è di portare il libro in giro per le strade della, insomma, d'Italia, diciamo. Sì, per le strade d'Italia, ora il mezzo naturalmente è un po' limitato, adesso lo stiamo portando su un altro mezzo, su un furgone, però per le strade di Palermo, della provincia, camminerà con le sue camicie, con le sue ruote. Ecco, e dov'è che avete trovato più attenzione, più curiosità oppure interesse? Ma guardi, io devo dirle che ha suscitato una grande attenzione e un grande interesse. E intanto nelle persone che hanno condiviso questo mio sogno nel cassetto, quello di fare proprio una biblioteca di strada e di farla su una lapa. Perché la lapa? Perché è un mezzo conosciuto, popolare, un mezzo proprio, amico, certo. Ecco, popolare, che il palermitano e il siciliano conosce bene. E ci sono stati degli amici che hanno sposato questa causa e mi hanno dato una grande mano, non avrei potuto farlo senza di loro, e sono, pensi, degli amici della Valcamonica. Accidenti, ecco, nel suo viaggio, sì, diciamo, ha scoperto qualche zona d'Italia in cui i giovani sembrano avere una sensibilità ancora più spiccata di quella che si aspettava verso la legalità? Ma guardi, io viaggio ormai, il mio viaggio dura da 24 anni, devo dirle. Ma ho quindi, notato delle una grande esperienza, sì. Sì, infatti, ho notato delle differenze, cioè nell'immediatezza. Dopo le stragi c'era una gran voglia di sapere, di capire, certo, soprattutto nel nord Italia, dove troppo spesso si era andati un po' per stereotipi, certo, per frasi fatte, diciamo, e dove pensavano anche sinceramente, diciamo, che fosse un problema che riguardava soltanto la Sicilia, le regioni del sud, sì, la Sicilia e le regioni del sud. Quindi dal principio la mia fu una testimonianza, io raccontavo i fatti, raccontavo Paolo essenzialmente, soprattutto perché volevo che questa figura venisse conosciuta e venisse amata, proprio per far sì che la memoria potesse durare. Via via però nel corso di questo viaggio la mia testimonianza si è trasformata, è cambiata, si è cominciato a ragionare in termini più reali, si è cominciato anche a progettare insieme. Mentre prima mi dicevano noi come possiamo aiutarvi, adesso mi dicono e io cosa posso fare. Certo, ecco, ma di legalità, perché di questo stiamo parlando, dottoressa Borsellino, di legalità si parla tantissimo, però troppo. Anche a sproposito, perché secondo lei? Sì, dico infatti troppo, perché forse è un termine che ormai è troppo abusato, probabilmente. Esatto. Dovremmo provare a trovarne uno più consono, più vero, perché ormai tutti parlano di legalità, anche chi di legalità dovrebbe stare ben attento a parlare, dovrebbe prima praticarla e poi parlarne. Certo. E allora sta succedendo quasi che questo termine si banalizzi, e guai a banalizzare un concetto come quello questo, della legalità. Ecco, sì, suo fratello Paolo... diceva una cosa molto interessante, perché diceva: se la gioventù, questa è una sua frase, se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente misteriosa mafia svanirà come un incubo. Ecco, durante questo tour, piano piano, lei la sente questo scioglimento di questo incubo? Guardi, questa forse è la frase di Paolo che mi ha spinto ad andare così, certo, assiduamente nelle scuole, perché mi sono chiesta se effettivamente lo strumento è questo e dobbiamo raggiungerli, questi ragazzi, queste nuove generazioni, e li possiamo incontrare soltanto nelle scuole. Naturalmente. E questa è stata la molla, devo dire, che mi ha spinto, che mi ha sostenuto e mi continua a sostenere. Perché vede i risultati. Sì, perché vedo i risultati, nel senso che provo sempre la la sensazione, non solo la sensazione o la conferma, vorrei dire, sì, che c'è una grande attenzione, una grande voglia di sentir parlare. Sì, i ragazzi ne hanno proprio voglia, sì, è vero. Ne hanno proprio voglia. Io vedo il silenzio straordinario che si crea quando si riesce a catturarli, naturalmente, perché l'attenzione dei ragazzi va catturata. Va catturata. Non accettano le banalità. No, no, e neanche le generalizzazioni. Sono le storie singole che convincono, esatto, moltissimo. Esatto, sì. Ecco. E poi hanno proprio voglia di testimoni, non tanto di, sì, sì, gente, professori o di qualcuno che salga in cattedra. Senta, abbiamo scoperto recentemente che anche l'antimafia può essere infiltrata per fini opposti. Secondo lei, perché questo rilassamento e queste maglie che si sono allargate? Ma guardi, io prima di parlare di maglie che si sono allargate penso un'altra cosa. Sì. La mafia per tanto tempo ha sottovalutato l'antimafia civile, l'antimafia sociale. Per tanto tempo l'ha sottovalutata, tant'è vero che alla fine ci lasciava fare, insomma, certo, ogni tanto ci disturbava in qualche modo, ci provava, ma forse soltanto per dire attenzione, perché noi comunque ci siamo e siamo qui. A un certo punto ha cominciato a vedere probabilmente che l'antimafia acquisiva una sua grande dignità, una sua forte personalità, e si diffondeva sempre di più, e allora ha capito che era, che non poteva più essere lasciata sola, doveva correre ai ripari, e correndo ai ripari l'ha cavalcata, certo, l'ha, certo, cavalcata, ha capito che questo era il modo per farlo, purtroppo ci sta riuscendo. Dottoressa Borsellino, ma sì, lei come pensa che reagirebbe oggi suo fratello di fronte a questo scontro che vede di nuovo la politica e la magistratura contrapposte? Guardi, io non mi sono mai azzardata a pensare cosa avrebbe pensato Paolo, certo, a dire cosa avrebbe detto, naturale, Paolo. Lui purtroppo non c'è più e quindi non possiamo saperlo, ma certo in passato, davanti a situazioni pur gravi e complesse che si sono verificate, come si stanno verificando adesso, Paolo ha reagito con una grande severità, certo. Paolo, uomo delle istituzioni, fedele alle istituzioni, però anche grande temperamento, perché anche, penso infatti, alla lettera che scrisse in difesa di Giovanni Falcone, e quella, lui sapeva che si stava esponendo molto. E ne accettava le conseguenze, esatto. Paolo finì davanti alla disciplinare del CSM, rischiò grosso quella volta, ma lui sapeva che questo sarebbe accaduto, valutò le conseguenze e disse: io devo farlo. Ecco, valeva la pena. Ecco, un'ultimissima cosa, dottoressa, sì, Borsellino, e la ringrazio. Quando pensa, no, a suo fratello Paolo, e mi pare che questo lavoro glielo fa pensare in continuazione, ecco, qual è il pensiero che l'aiuta di più a sopportare il dolore della sua morte così, così violenta? Ma guarda, è un pensiero piuttosto difficile da esprimere, devo dirle, però io proprio per l'attività che svolgo ormai da 24 anni, quando mi guardo attorno vedo questi ragazzi che si appassionano, che si commuovono persino davanti a certe situazioni, che poi si mettono lì in fila quasi per ringraziarmi di averli portati in questo, a ragionare su queste cose, dico: certo, la morte di Paolo è stata ed è dolorosissima, ma forse Paolo con la sua morte è riuscito a fare molto di più di quanto non potesse fare in vita, perché lo ostacolavano, glielo impedivano, grazie, in tutti i modi. Adesso è libero e vive nel cuore e nella coscienza di ognuno di questi ragazzi. E questo seme raccontato attraverso le storie lascia, sì, veramente, sì, il segno. Sentiamo l'ultimo discorso di Paolo Borsellino, fatto pochi giorni prima di essere ucciso, in testimonianza di Giovanni Falcone. Quando Falcone, solo per continuare il suo lavoro, propose la sua aspirazione a succedere l'Antonino Caponnetto, qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro, ed il giorno del mio compleanno il Consiglio Superiore della Magistratura ci fece questo regalo. Preferì Antonino Meli. Queste cose che io so possono essere utili alla ricostruzione dell'evento che ha posto fine alla vita di Giovanni Falcone, e che soprattutto nell'immediatezza di questa tragedia ha fatto fatto pensare a me e non soltanto a me, che era finita anche una parte della mia, della nostra vita. Ecco, queste erano le drammatiche parole di Paolo Borsellino, consapevole assolutamente del destino che lo aspettava. Oggi 23 maggio a Palermo, appunto nel 24esimo anniversario della strage di Capaci, questa sera nell'ambito delle iniziative collegate alla commemorazione delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, il Centro Studi Paolo Borsellino insieme alla Fondazione Falcone, a Libera, a Dio Pizzo, Fondazione Polis, Fondazione Silvia Ruotolo e CO2 presenteranno nell'ambito del progetto Il Palcoscenico della Legalità lo spettacolo 10 storie proprio così al Teatro Biondo, appuntamento da non perdere per chi può. 800 24 00 24 numero del telefono, 349 238 6666 l'SMS pubblicità. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. Mix 24. Film in concorso tra cui scegliere il più meritevole di vincere l'ambita Palma d'Oro. Chan è andata a Ken Loach con il suo film I, Daniel Blake. Kenny Rosso, alla soglia degli 80 anni, non ha risparmiato parole importanti ricevendo la sua seconda palma davanti a una platea commossa in standing ovation. Vittoria a sorpresa che farà certamente discutere. Pascal Vicedomini, giornalista, inventore dei festival di Ischia, Capri, Los Angeles, Italia, la rassegna di programmi a Hollywood durante la settimana degli Oscar, autore anche del programma in diretta da Cannes per l'appunto. Ecco, Pascal. Insomma, questo di Ken Loach, una vittoria in realtà annunciata, o sbaglio? Ma diciamo che è un omaggio all'integrità intellettuale di Ken Loach, che ha saputo portare in Francia un film che lo ha fatto definire l'ultimo dei comunisti, una storia semplice di gente normale, l'estrema povertà attuale che c'è nella società. Ecco, qualcuno ha detto però un film... cioè che un verdetto scontato e superficiale per un comizio scontato. Non vorrei, come dire, essere... Sei d'accordo o no? Sì, sono d'accordo. Penso è un po' ovvio, ma i risultati che ci sono in queste gare alla fine sono un po' sempre scontati. Sempre scontati. Forse... Insomma, hanno fatto il loro tempo questi festival. Hanno fatto questa formula, ha fatto il loro tempo, come ha sottolineato qualche giorno fa determinato il boss di Netflix, dicendo che appunto non si può più immaginare di avere dei festival dove vengono giudicati, anche perché, direttore, il problema è un altro: il vero vincitore formale per noi italiani è proprio Paolo Virzì, perché Paolo Virzì, escluso dal concorso ufficiale non si sa per quale motivo, quest'oggi figura al secondo posto del box office italiano dopo X-Men, un blockbuster americano. C'è Paolo Virzì con La pazza gioia, un film capolavoro che probabilmente segna la svolta globale di Virzì, il quale tra l'altro a luglio girerà il suo primo film hollywoodiano con Donald Sutherland. E tutto questo con Cannes non c'entra niente, appunto. Assolutamente, infatti a Cannes è stato preso in una sezione collaterale la che sente il realizzator, cioè la quindicina degli autori, insomma una sezione minore, e mentre la grande sconfitta è proprio del cinema hollywoodiano, perché gli americani... Beh, Sean Penn per esempio ha presentato un film brutto, no? Un film, diciamo, discutibile, però il problema è non il singolo autore, è proprio la crisi creativa che c'è profonda nel sistema hollywoodiano, il che genera, anche perché se noi guardiamo lo stesso film con George Clooney e Julia Roberts, il Minority Monster, che sicuramente piacerà tanto a Mario Sechi, su grandi macelli dell'economia, della finanza internazionale. Confermo. Quest'oggi figura il box office bassissimi numeri, dunque Senti. Vuol dire che non c'è grande interesse del pubblico. Senti, no. Pascal, a parte la presenza di Ragolino, comunque in giuria naturalmente si è sentita la mancanza del cinema italiano, perché diciamo in questo tipo di concorsi, come hai detto tu, non si capisce bene più che cosa si giudica. Sì, sì, infatti, ma lì un giorno Calopresti, parlando del nostro piccolo film, di Festival di Ischia, mi disse: tu stai facendo un buon lavoro a Ischia, sai perché? Perché stai ricreando quello che hanno fatto a Cannes, ovvero stai ricreando un club di artisti, di autori che si ritrovano. In effetti Cannes non è altro che un club di amici che si ritrovano, e alla fine sono sempre gli stessi che se la suonano e se la cantano. Quest'anno mancavano al club Tarantino e i fratelli Coen, ma c'erano tutti Mungiu, il giovane Dolan, che pure è molto talentuoso con il suo film Giusto alla fine del mondo. Vabbè, insomma, diciamo che alla fine gli diamo zero questo festival. No, gli diamo, ha comunque creato molta attenzione, soprattutto ha dato un po' di, come dire, energia a una Francia profondamente depressa. Io nel mio programma che ho fatto, sì, l'intervista che mi ha più segnato e più colpito è stata un grandissimo, forse il più grande attore francese, italo-francese, Fabrice Luchini, il quale mi ha detto, con uno sguardo molto anche ironico, ma se vogliamo sincero: la Francia è depressa. In effetti, adesso possiamo dirlo che il festival è finito, siamo tutti tornati a casa, si respirava un'atmosfera molto molto cupa, certo, in virtù della del controllo, certo, politica in cui si trova la Francia, politica anche, come dire, internazionale, certo, nei confronti del terrorismo. Va bene, assolutamente, okay. C'era un sistema di sicurezza, un clima brutto, insomma, clima molto molto triste, pesante, con i francesi stressati. Grazie Pascal. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666, l'SMS canzone. Oggi in metropolitana re, regine, principi e imperatori se ne stavano lungo le gallerie con le coperte sotto braccio, tra le dita le confessioni di Sant'Agostino e cappotti d'oro massiccio sotto i quali stavano al calduccio, al freschetto, a secondo del bisogno. Insomma, tutti insieme spiegavano ai pendolari la filosofia di questo santo. Ma nella folla c'era Asterix ed era in cerca di Cesare tra tutti quei Cesari. Invece c'era Luce ed era Falbalà, ed è arrivato Obelix e, rispettando le pagine grandi di filosofia e teologia, ha comunque riempito la metro di menhir. Cappotti d'oro, eh? Hai capito? E le confessioni di Agostino. Vabbè, io sono così, che volete che vi dica. Tu dove vai invece? Un po' in giro per il mondo, è lunedì. Mai lasciare il volante nelle mani di una donna, perché alla fine prende la guida e se ne va. La guerriera ha preso il volante della musica. Chi so questi? Green Day. Know your enemy, ecco appunto, conosci il tuo nemico. Rockettara, eh? Beh, mi pare. Vabbè, allora Giovanni, cosa succede? La settimana presenta un menù molto interessante. Abbiamo venerdì in Giappone si tiene un G7, che essendo 7 e non 8 non avrà la Russia, quindi dal punto di vista, diciamo, geostrategico è un po' depotenziato, perché puoi decidere poco senza, certo, avere l'accordo della Russia, almeno in politica e estera. E perché non c'è la Russia? Perché sai che l'hanno esclusa dai G8, c'è tutta una decisione presa tempo fa dagli americani, quindi dobbiamo... Che tutti subiscono. Allora... Che tutti subiscono. Però, insomma, al di là di questo, sicuramente ci sono delle cose da discutere sul tappeto. Per esempio, gli stimoli economici. Shinzo Abe, il premier del Giappone, preme per averne di più a livello globale. La Merkel, invece, no. Insomma, c'è una grande discussione su questo. Anche perché bisogna vedere come funziona il coordinamento delle politiche monetarie, cioè delle banche centrali, perché la Fed si prepara a rialzare parità sia giugno a quanto pare, e poi c'è l'incognita della Brexit. Il titolo più forte però del summit probabilmente lo darà Obama con la storica visita a Hiroshima insieme a Shinzo Abe. In Europa segnalo che si riuniscono i ministri degli esteri, oggi in agenda hanno Siria e migrazioni, non decideranno niente. Domani invece c'è una decisione attesa dell'Eurogruppo sulla Grecia, o domani o dopo, vediamo. Servono soldi, come sapete tutti, l'alleggerimento del debito alla fine Atene avrà quello che serve, perché non è che possono farla andare gambe all'aria alla vigilia appunto di un voto importante come quello inglese. Ci portiamo dietro questo inutile, questo falso problema. Questo falso problema. Importante è fare la sceneggiata. Esatto. In Italia la cosa importante accade oggi, poi vediamo nel corso della settimana, però alle 16 al Ministero dell'Economia c'è la conferenza stampa del Fondo Monetario Internazionale al termine della sua visita annuale in Italia, e ci dirà qual è lo stato delle riforme economiche, che cosa dobbiamo fare, che cosa abbiamo fatto. C'è qualche indiscrezione? No, per ora no, secondo me sarà un giudizio abbastanza positivo. Alla fine, sì. Senti, è curioso questo fatto che in America le posizioni fra i due contendenti si avvicinano, sì, anzi molto. Mi sembra che Trump cominci ad avere un piccolo vantaggio. Allora, naturalmente si vota stato per stato, come sapete, sì. I sondaggi generali sono valgono poco però contano, secondo me. Io dico sempre valgono ma contano. Secondo me Trump rischia veramente di fare il botto. bisogna vedere cosa farà Clinton a questo punto, che sta arrivando logorata. Se quello fa il botto, lei fa lo schianto. Sì, certo, ma il problema è, arriva o no in forma per novembre? Perché potrebbe arrivare logorata, questo è il punto. Salamino! Premesso che i partigiani, veri o verosimili che siano, che fossero, che siano mai stati, comunque il 25 aprile del 2009 negli Abruzzi, a Onna precisamente, fecero corona a Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio in illo tempore, premesso che... Musica! Premesso che... Indossato il fazzolettone al collo, battezzato resistente partigiano, come oggi la soave ministro delle riforme, novella Tina Anselmi, la staffetta Maria Elena Boschi, premesso appunto il fazzolettone di Berlusconi, al tempo, ricordate, era all'apice della popolarità. Era indiscusso leader, era sicuro di ogni sicurezza. All'indomani di quel 25 aprile, all'indomani di cotanta resistenza, dovette bere il calice della fine rapida di tutto. Ha voglia di mettersi il fazzolettone, poveretto. Cominciò la festa dei 18 anni di Noemi Letizia, poi Patrizia D'Addario, poi il caso Rubi, poi il Bunga Bunga, poi la tavernetta. Insomma, nello stesso momento in cui indossa il fazzolettone dei partigiani, cosa gli capita? La nuvoletta della sfiga totale che lo accompagna. E premesso tutto ciò, io lo dico per voi, state attenti con questi fazzolettoni. Io lo dico per voi, ancora ieri la ministra da Lucia Annunziata, lanciandosi nella campagna per il sì plebiscitario, schierava accanto a sé i partigiani. Verosimilmente saranno tanti, considerato che quelli buoni, che hanno fatto la resistenza. E appunto io ho calcolato che siccome gli ultimi 4.500 morti della cosiddetta giustizia partigiana si sono avuti in Emilia nel 1949, oggi siamo nel 2017, quindi l'età media si è alzata. Insomma, tanti di questi giustizieri saranno in vita, stanno con lei. Insomma, premesso ciò, tantissimi sono al fianco della ministra, e non solo loro, i giornali di regime oggi portano acqua al mulino della Boschi. Ma fatta premessa di tutto ciò, allora che cosa succede? Succede che io ho fatto un altro calcolo e ho saputo che non solo si schierano i partigiani con la staffetta Boschi, ma anche i combattenti e reduci del Carso, la guardia pretoria dei consoli romani, i bersaglieri della breccia di Porta Pia, non però il generale Garibaldi. Il generale Garibaldi ha detto no, chiaro e tondo, Mario, ha detto no, chiaro e tondo, mentre sì, fortissimamente sì, hanno detto i 999 su 1000 dei 1000, delle 1000 camicie rosse sbarcate a Marsala, e con loro ha detto sì pure Pilo. Pilo chi? Il generale Pilo. No, ma ha detto al fianco della Boschi Musica. Pilo ha detto sì. Pilo, ma chi? Un generale Pilo, no? Ma Pilo chi? Ma vedi, ti fai forte della resistenza e dimentichi il resto della storia. Io conosco il generale Schwarzkopf. Generale Pilo, quando arrivarono da Garibaldi, Garibaldi si disse: generale, c'è Pilo. Generale Patton. E quello disse: sei buono, fallo entrare. Se è buono fallo entrare. Già, Mario. Volla, so. Volla Mario. Vai. No, io non è che è una bolla molto lunga. Poi questa canzoncina di... Ma è Shakira? Signore. No, vabbè, non posso subire così. Ah, canzoniera ancora. Che no, fai? Me blocchi? Dai. No, volevo dirvi che Buttafuoco e Minori hanno preso a parlare autonomamente da soli mentre io faccio una bolla. Sì, perché lui sta partendo per andare a Palermo. No, fermo là che devi fare il canzoniere. Allora, era solo per dirvi che in Venezuela hanno finito lo zucchero e la Coca-Cola ha smesso di produrre la bibita. Quindi purtroppo ci ridiamo sopra, ma in realtà è un dramma. La domanda è: ma Maduro dura? Sì, ma vediamo. Certo, quella del Venezuela è una storia pazzesca. Mamma mia. Beh, lì ci sarà un'altra rivoluzione a breve, disastro colossale. Penso un paese che dovrebbe essere ricchissimo. Canzoniere. Fai il canzoniere, va. Muori, il tuo cuore è abbastanza magnifico. La tua vita è matura come i grappoli d'autunno. Alabanda! Alabanda! Io voglio riposare, voglio distruggere progetti e desideri, voglio essere puro, come si conviene a un artista. 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666, sms, qui l'aiutino ci vuole prima di partire. Allora, l'autore di questi meravigliosi versi era amico di Hegel e di Schelling, ma non era Fichte. Ah, mamma mia, così lo sapranno tutti. Adesso vedremo le risposte e intanto 800 24 00 24, numero verde, lo ripeto, 349-238-6666, sms, pubblicità. X24. C'è stato un gravissimo attentato sulla autostrada Palermo-Trapani. Lo spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta. Si vedono lamiere contorte, pare siano stati utilizzati, secondo una testimonianza del procuratore distrettuale antimafia Piero Giammanco, qualcosa come 1000 kg di tritolo. 23 maggio del 92, una cronaca che colpisce ancora anche dopo averla ascoltata troppe volte, perché le due stragi di quell'anno terribile, Falcone e Borsellino, segnano il momento più spaventoso nella sfida della mafia allo Stato. Solo 6 anni prima, il 10 febbraio dell'86, l'inizio del maxi processo, il più importante mai celebrato alla mafia. Alla sbarra 475 criminali, 22 mesi di udienze, un verdetto complessivo di 19 ergastoli, 2665 anni di carcere. La mafia diventa finalmente reato e la vittoria del pool, una vittoria breve. Giovanni Falcone, un giudice italiano, le parole della giustizia, i silenzi colpevoli, le verità, i misteri, qui a Mix24, i gialli della storia, dopo il giornale radio. Di Gino Baraldi ci scrive: è possibile recuperare l'intervista della signora Borsellino? Sì, basta andare sul podcast, perché lui dice potrebbe diventare strumento da diffondere in incontri con ragazzi della scuola superiore, esattamente certo. Quello che bisognerebbe fare, e quindi il podcast di Mix 24 lo trova. E Rita invece, Rita se la prende con te, Mario, Rita, perché dice? Eh sì, dice, buttafuoco innamorato perso della bella Elena, no, aiutatelo, quindi no. Siete rivali oramai. Ma quando mai? No, non c'è rivalità. Non c'è rivalità. No, anche perché, non voglio dire chi vince. Anche perché lei non ama nessuno dei due. Quindi. Ah, va bene. C'è un amore disperato il vostro. Va bene. Disperato. Ok. E allora andiamo con una bolla. Sì. Io non creo niente. Io posseggo. E noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy? È il libero mercato e tu ne fai parte. E noi ne facciamo tutti parte del libero mercato. Operazione affascinante in corso per tutta una serie di implicazioni economiche, geopolitiche e di futuro di un settore. Parliamo di quello che si chiama agribusiness, l'agricoltura, perché i tedeschi della Bayer hanno lanciato un'operazione per acquistare la Monsanto, che è americana. Nascerebbe il titano del settore, valore 62 miliardi. Bayer offre $122 per azione con un premio del 37%. Guardate che questa è una cosa che riguarda tutti, perché prodotti Bayer e Monsanto in tutto il mondo significa cibo, significa agricoltura, significa ricerca, è un pezzo di futuro. E la cosa interessante è che questo rappresenta la più grande operazione fatta all'estero da un'azienda tedesca. La Germania si muove, si sta muovendo. E noi col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Journal of Bone and Joint Surgery, dicembre 2015. La viscosupplementazione per osteoartrite del ginocchio. La viscosupplementazione è la parola nobile per descrivere le iniezioni intraarticolari di acido ialuronico per l'artrite di ginocchio. Ve lo dico perché è una terapia abbastanza in voga e soprattutto una terapia molto costosa, o abbastanza costosa, per cui molti la stanno magari facendo nell'idea di evitare quello che è l'outcome finale dell'artrite di ginocchio, che è l'intervento chirurgico e la protesi di ginocchio, perché l'osteoartrite di ginocchio dà dolore e danno funzionale, per cui tra il dolore e l'incapacità di muoversi si è costretti all'intervento chirurgico. E certamente uno dice: ma se riesco a evitarlo e mi faccio un po' di iniezioni, sia pur magari fastidiose, con acido ialuronico, sia pur costose, con acido ialuronico, ho risolto il problema. Purtroppo non è così. Si è visto in questo studio che seguiva tutti, ha messo insieme tutti gli studi fatti con l'iniezione con gli acido ialuronico, che seguivano appunto i pazienti per almeno per 4 settimane dopo le iniezioni, e avevano almeno 30 pazienti negli studi, quindi avevano un minimo di massa critica. Misuravano il dolore e la funzione del ginocchio con delle scale precise che davano dei punteggi e vedevano quindi se c'era un effetto clinico alla fine. L'effetto clinico c'è, ma è un effetto clinico molto modesto, è clinicamente significativo, tanto che l'American Academy of Orthopedic Surgery, cioè gli ortopedici americani, nelle loro linee guida del 2013 sono contrari all'iniezione di acido ialuronico nell'artrite di ginocchio. In più, tanto per essere ulteriormente meno favorevoli a terapie mediche a distanza, nell'Annals of Rheumatic Disease del gennaio 2016 anche l'associazione glucosamina e condroitina viene in qualche modo questionata, cioè fa qualcosa ma fa poco. Quindi l'idea è quella di fare molta fisioterapia e alla fine intervenire chirurgicamente. Gloria Guerrera, stamattina cosa ha scelto per noi? Una canzone per chi insiste e compromette così la propria reputazione esagerata. Ricky Roberts, Sono tremendo. Con tutte le ragazze sono tremendo, le lascio quando voglio e poi le riprendo, nessuna mi resiste.